Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La finestra della mia stanza si affaccia proprio su una di queste. E da lì vedo una famiglia. Seguo le sue vicende ormai da un quarto di secolo. So i loro orari, le loro abitudini e le loro parentele. Ma non li conosco veramente. Mi piacerebbe una volta scendere, salutarli, ma non saprei come presentarmi. Non è che posso bussare e dire: salve, io sono quello che vi spia dal palazzo di fronte. Chissà, potrebbero anche prendersela male. Sono Maria Teresa Gabriele, telefono da Bari. Sono una giornalista. Attualmente però sono tornata a casa dei miei perché mi sono licenziata dal mio giornale pensando di trovare un lavoro a Bari. L'attività principale di molte persone che vivono nel mio paese, ma credo di molte persone che vivono nei paesi, ma forse anche no, di gente che vive in città. Vabbè, secondo me l'attività principale umana è quella di osservare gli altri. Nella fattispecie a casa mia, proprio sotto casa mia, c'erano mia zia Mina, mia zia Mariuccia, la Mariuccia di fronte. Due di queste sono già morte, due su tre sono già andate. E poi c'erano le due sorelle che tutti chiamavano le carampane perché erano zitelle, che si sedevano di fronte alla porta di casa o al cancello e guardavano le persone che passavano. Ovviamente come si dice al mio paese, le cimentavano, cioè le salutavano, gli chiedevano qualcosa. La parte più interessante era però quando queste persone si allontanavano, perché loro un po' chiaramente tiravano fuori qualche pettegolezzo su quello che aveva fatto o non aveva fatto, e un po' però secondo me gran parte delle cose se le immaginavano, cioè cominciavano a ipotizzare cose che non esistevano. La puntata di oggi è una puntata particolare perché è successa una cosa strana. Noi di fatto questo racconto l'avevamo scartato, non perché non fosse bello, non perché non fosse interessante, ma per il semplice fatto che non rispondeva alle caratteristiche che noi vi chiediamo di solito, cioè di raccontare una storia, un episodio della vostra vita con un inizio, uno sviluppo e una fine che racconti qualcosa di voi. L'abbiamo scoperto quando, essendo un racconto in prima persona al maschile, quando abbiamo sentito la protagonista di questa storia, ed era una donna, la persona che l'ha scritta, abbiamo detto: beh, allora no. Lei invece ha trovato un espediente narrativo molto interessante. E ve la spiegherò più tardi, però. E quindi ascoltatevi questa storia che parla proprio di quello: parla di immaginare le vite degli altri, di osservarle, di vedere che scorrono davanti ai propri occhi o che passano magari in bicicletta davanti alla casa vostra d'estate, quando voi siete lì con la Mariuccia e la zia Mina a chiacchierare, e immaginare che cosa potrebbe succedere. 349-238-6666 oppure Matteo Caccia, io sono qui, è il profilo Facebook del programma. Se vi è mai capitato non solo di immaginare le vite degli altri, ma che il potere immaginifico della vostra mente superasse la realtà. Vi faccio un esempio. Pietro mi scrive: da piccolo immaginavo sempre di essere in un posto diverso da quello in cui mi trovavo. Non che non mi piacesse stare dov'ero, ma mi pareva più divertente provare a pensare di essere altrove e guardare le cose che stavo vivendo da fuori. Ed è proprio quello di cui si parla oggi, di guardare le cose da fuori. Giada: io mi rifugio ogni giorno in storie che mi immagino. Vabbè, qui chiaramente il limite con la patologia è sempre sottilissimo. Non lo racconto in giro perché ho paura che mi prendano per matta. Giada, non c'hai nemmeno tutti i torti. Eppure la sera, sia la sera ma anche durante il giorno in ufficio, mentre fisso lo schermo del computer, in realtà spesso penso ad altro e mi immagino cose che potrei fare per andarmene da qui, per cambiare lavoro, casa e vita. Chissà se un giorno smetterò di immaginare solamente. Giada, chissà, magari datti una mossa. 349-238-6666. La storia di Maria Teresa, invece, è la storia di un uomo che guarda da una finestra. Sono 30 anni che abito al sesto piano di un casermone in una zona di Bari che non capisco più se è periferia borghese o centro trasandato. Perché tutto cambia così in fretta che non ti accorgi nemmeno di dove vivi. Dal mio punto di vista, da casa mia, posso tenere d'occhio una strada nascosta e lì una serie di villette a schiera che invidio molto. La finestra della mia stanza si affaccia proprio su una di queste. E da lì vedo una famiglia. Vedo una famiglia e seguo le sue vicende ormai da oltre un quarto di secolo. So i loro orari, le loro abitudini e le loro parentele. Ma non li conosco veramente. Mi piacerebbe scendere, salutarli, ma non saprei come presentarmi. Non è che posso bussare e dire: salve, io sono quello che vi spia dal palazzo di fronte. No, potrebbero anche prendersela male. Ricordo sin dall'inizio, c'erano due genitori. Quando sono arrivati erano giovani, carini, molto dinamici. Lui, il padre, andava e veniva con macchine di preferenza bianche, una Renault, mi pare, e una Fiat, una 132. Lei invece è una bionda molto elegante. Spesso era impegnata in giardino. Voleva fare un orto, mi pare. Poi però ha ripiegato su alberi e cespugli di rose. Era una città molto vivace, piena di universitari, piena di cambiamenti politici. Sono stati anni molto intensi per noi, per la nostra famiglia, anni di fondamentale consolidamento, insomma. Io poi sono andata a lavorare fuori. Avevano 4 figli. La maggiore, quella che si muoveva sempre, come una trottola, e su cui ho appuntato spesso la mia attenzione, perché era quasi una mia coetanea. Poi una favolosa bionda, un ragazzo e la più piccola, tutta pepe, bruna, con i capelli ricci. La più grande la vedevo spesso, aveva anche un fidanzato che le insegnava a guidare una moto, un Harley Davidson, credo. E sto parlando ormai di quasi 20 anni fa. Poi a un certo punto non l'ho più vista. Deve essersi trasferita altrove, chissà, forse proprio per la delusione inflittale da quel centauro. Tornava però, il fine settimana, con una panda bianca e un bel cane pastore. È tornata a casa circa 10 anni fa, dopo aver avuto, credo, un altro fidanzato, che è venuto a prenderla poche volte con un'auto scoperta, arancione. Era molto affascinante l'insieme, voglio dire, la cabriolet e loro due sopra. Ma tanta acqua era passata sotto i ponti. È una famiglia che ha conosciuto come tutti gioie e dolori, ma forse, a quanto posso giudicare da quassù, più dolori. La secondogenita, ricordo, era davvero una bella ragazza. Sembrava un'attrice, un'americana. Si sposò con un giovane alto ed ebbe una bambina. Ma dopo pochi anni si ammalò. Ne vidi il funerale dalla finestra. La bambina andava alla prima elementare qui vicino e poi se ne andò col padre, per tornare solo anni dopo. Ora è una splendida ragazza. In quella strada, da allora, ed era il 1992, non ci sono più stati lutti, fino all'aprile del 2010, quando se n'è andato il capofamiglia. Era un uomo che non stava mai fermo e da quando era in pensione era anche più attivo di prima. Stravedeva per la sua famiglia e ha sempre fatto fronte alle sventure con il sorriso. Si vedeva che aveva una gran forza d'animo. Il ragazzo deve essersi laureato, ma anche lui, ora lo vedo solo nei weekend. Probabilmente non lavora più in città. La piccola invece ha avuto 2 figli. Ogni tanto viene a pranzo dalla mamma, la sorella e la nipote che è rimasta qui, ma esce sul balcone poche volte, giusto per stendere dei panni, e si accapiglia alle volte con la zia, la grande, che è rimasta a casa, ora, dopo aver viaggiato tanto. Chissà che lavoro faceva. Me la sono sempre immaginata una reporter, una giornalista, qualcosa del genere. All'inizio, per esempio, nella mia famiglia si erano stupiti tutti che io me ne potessi andare così lontano, perché io poi sono andata subito a Venezia, perché ho fatto un anno di borsa di studio. Poi però quando sono tornata, dopo quell'anno, ho trovato questo lavoro a Lecce, che insomma sono sempre circa 200 chilometri da Bari, sono 156 chilometri. Alla fine io poi non ero né carne né pesce, non ero né di là né di qua. Capita che Bari non ami i suoi abitanti e che spesso siano i provinciali a trovarci successo, non i nativi. Del resto, se tornava la domenica non doveva essere molto lontana. Adesso esce in bici a fare la spesa 2 volte al giorno con una cagnolina molto nevrotica e poi ha un gattino bianco e grigio. Si direbbe che sia fuori dal mondo lavorativo. È ancora giovane per la pensione, ma non vedo nessuno accanto a lei. Del resto qui non passa nessuno e i proprietari di cani scambiano poche parole. Li conosco tutti, tutti. Ma come faccio a parlare con loro? Cosa faccio? Scendo e dico: salve, sono un inquilino del palazzo di fronte, vi spio da decenni. Mi pare brutto. Sembra che io spii, e invece no. È vero però che alla fine mi sono affezionato a loro. Anche se non so molti dettagli della loro vita, l'essenziale lo conosco. Chissà, forse un giorno riuscirò a trovare il coraggio. Curiosare nelle vite degli altri è un vizio che ho sempre un po' avuto. E ho sempre cercato di farlo andando in giro per le strade, ad esempio nei negozi, partecipando alle feste, attaccando bottone con la gente, parlando un po' con chi capita. Poi un giorno invece ho capito che c'è anche un altro modo per scoprire quello che succede intorno a me. E quel modo è stare immobili e osservare. E l'ho scoperto per caso un giorno di quest'estate, mentre passeggiavo a Parco Sempione e mi guardavo in giro. Perché è stato quando mi sono seduto su una panchina che ho scoperto il trucco. Che se ti muovi spesso fai fatica e non ottieni un granché. Ma se stai fermo, il mondo incomincia a ruotarti attorno e tu puoi concentrarti su come interpretarlo. Quel giorno, per esempio, mi sono trovato in mezzo a un gruppo di adolescenti che aveva finito la scuola e cercava degli spazi per rimanere insieme. Saranno stati una decina tra ragazzi e ragazze che non avranno avuto più di 13-14 anni e avevano portato un pallone, una radio e un frisbee. Ma più che altro giocavano a rincorrersi o a parlare, farsi gavettoni e cominciare schermaglie amorose. E non dovevo fare altro che stare fermo a guardare per capire chi era l'amico preferito di chi era attratto da chi era rimasto scornato da chi e chi era destinato a rimanere da solo e in disparte. Ma è anche vero che io non ho ascoltato quasi nemmeno una parola di quel che si dicevano. Li ho solo osservati muoversi per una mezz'ora, poco più. Eppure sono sicuro, adesso potrei raccontare delle storie su tutti. Perché quelle storie in qualche modo me le sono inventate, ovviamente. Certo, nessuno mi ha detto niente. Ho solo guardato e messo insieme dei pezzi. Perché se c'è una forza che hanno tutte le nostre menti, è quella di costruire delle storie. Ognuno la propria. È il modo che abbiamo per conoscere il mondo e per eliminare la complessità. Ad esempio, se voi in questo momento, se siete a casa e guardate fuori dalla finestra, vedete un tizio che sta correndo, con una valigetta in mano, ad esempio, che pensate? Boh, io penso magari che è uno che è in ritardo per un appuntamento, magari sta perdendo l'autobus. Però qualcun altro potrebbe pensare che è un ladro e quella valigetta l'ha appena rubata, o chissà cosa c'ha dentro quella valigetta. Oppure che è stato appena rapinato del portafoglio e sta inseguendo qualcun altro. O che ne so, che è tutto il giorno che è saluto in ufficio e vuole semplicemente sgranchirsi le gambe per 100 metri e poi si rimette a camminare normalmente. Nessuno può dire quale sia la storia giusta, nessuno, tranne l'uomo che corre, ovviamente. Chissà, forse stanno girando un film, oppure lui ha visto la sua fidanzata entrare in un taxi e vuole fermarla per dire che ha lasciato a casa il telefono ed è per quello che non risponde. Nel mondo ci sono infiniti eventi e per ognuno ci sono infinite storie possibili e un sacco di interpretazioni. Ed è così bello lasciare che la mente le provi tutte e trovi quella più giusta che io non voglio quasi mai sapere qual è la storia vera, quella reale. Certo, poi ci sono persone che con questo esercizio ci esagerano un po'. Tipo il mio amico Davide. Davide è un tipo particolare, studiava ingegneria e poi adesso è un ingegnere. E quando studiava faceva il pendolare tra Novara e Milano. E ogni giorno lui incontrava una ragazza che gli piaceva molto, sul treno. E anche se non l'aveva mai rivolto la parola, era convinto che nei loro brevi incroci di sguardi ci fosse una specie di storia d'amore. E non è andato avanti così per un mese o due, è andato avanti così per un anno, senza dire niente a nessuno. Poi una sera in macchina mi ha confessato tutto, felicissimo. E allora gli ho chiesto come mai non avesse provato a parlarci con questa ragazza, a fare un passo. E lui mi ha risposto che in quell'anno si era immaginato in ogni giorno un amore completo, meraviglioso, fatto di baci, di carezze, di complicità. E poi si era anche immaginato un matrimonio con lei e dei figli, qualche litigio, ma niente di speciale. Poi aveva pensato che i figli diventassero grandi e loro due si dedicassero ai viaggi. E nella sua mente era tutto così perfetto, tutto così reale, così bello, che facendo qualcosa aveva paura che l'avrebbe rovinato. Ecco, era per quello che non voleva conoscerla veramente. Perché la loro storia non sarebbe mai stata come lui se l'era immaginata. Ora, il mio amico non sta benissimo, io però ho dovuto dirgli che in un certo senso lo capisco e che però forse un giorno, anche solo per curiosità, avrebbe dovuto offrirle una sigaretta a quella ragazza, anche se non fumava. Ai più attenti tra voi, e so che ce ne sono diversi, non sarà sfuggita la stranezza della puntata di oggi. Perché? Perché il racconto è raccontato da una prima persona maschile, cioè da un uomo che guarda la finestra la vita di un'altra famiglia, la vita di altre persone. Però i commenti in voce, la protagonista di questa storia è una donna, si chiama Maria Teresa. Il motivo è molto semplice, ma preferisco lo spieghi lei. Pronto Maria Teresa? Sì, buongiorno. Ciao, Matteo. Come stai? Bene, bene. Dove ti trovi? Aspetta, Maria Teresa, aspetta un secondo. Dimmi dove ti trovi in questo momento. A Bari. A Bari, perfetto. Ma dove? A casa? Sì, a casa. Sei a casa, perfetto. Allora, raccontami bene, perché devo dire che all'inizio noi, sai che, visto che chiediamo sempre i racconti in prima persona, comunque di un episodio della propria vita, eravamo un po' spiazzati. Poi in realtà, quando ci hai raccontato l'espediente narrativo, di fatto la cosa ci è sembrata ovviamente molto interessante. La finestra sul cortile, sì, infatti. Niente, siccome di fronte a casa mia io abito in una villetta a schiera, cioè un grande palazzo, un palazzone con mille finestre, mi sono immaginata come poteva essere la nostra vita vista da quella prospettiva, ecco, noi che eravamo delle specie di formichine, e mi sono immaginata un signore curioso, no? Di solito sono curiose le donne, però come Hitchcock ha fatto vedere sono curiosi anche gli uomini. Quindi un signore che guardava dalla finestra, che per 25 anni ha seguito di fatto la vita tua e della tua famiglia. Della mia famiglia. E quindi le persone, i protagonisti di questa storia siete voi, no, tu. I miei genitori e i miei tre fratelli, cioè io ho due sorelle e un fratello. E la nipote poi, anche. È una nipote che vive con noi, sì, adesso. Perché a questo punto... purtroppo poi è morta, insomma, tutta una serie di vicissitudini. Immagino, perché ricostruiamo un attimo la storia. Quindi tu, Maria Teresa, sei la più grande. Sei la maggiore. Sì, sì. Ok, quella che è stata a studiare o lavorare fuori, sì, giusto? Fuori. Sì. Dove sei stata? Me lo ricordi, a Venezia? Sono stata a Venezia con una borsa di studio della FIEG FNSI, poi sono diventata giornalista e ho lavorato 20 anni a Lecce. Ok, e adesso invece sei tornata a Bari. Uh-huh. E adesso cosa stai facendo, Maria Teresa? La casalinga. Scusami? Devo dire che faccio la casalinga perché... la casalinga, ok. Sì, sì, non ho più trovato lavoro. Quanti anni hai, Maria Teresa? 54. E di cosa ti sei occupata fino... Insomma, quando... Praticamente fino a 7 anni fa sono stata redattrice ordinaria proprio in un quotidiano, un quotidiano che aveva la diffusione nel Salento, Lecce, Brindisi e Taranto. Che si chiama? E poi, sì, cronista. Cronista? Sì. Ma tu ti occupavi di una roba in particolare, tipo di cronaca, di spettacolo? Cronaca bianca, cronaca nera, un po' di tutto, anche politica, seguivo le campagne elettorali. No, mi piaceva molto, soltanto che poi avevamo fatto un tentativo di trasferimento del giornale a Bari, non è durato e io ero stata trasferita a Taranto. Taranto non mi piace, poi ho fatto la pendolare per un anno e mezzo e mi sono licenziata. Ho pensato che nel capoluogo di regione avrei trovato più facilmente, invece no. Quindi tu di fatto sei tornata proprio a casa, cioè nella casa in cui eri cresciuta? Sì, sono tornata, sì, sì, con mio padre e mia madre, anche perché ero sola, cioè ero nubile, come si dice. Eri, scusami, nubile, ok, eri nubile. Sì. Senti, invece raccontami di questo fidanzato con la cabriolet arancione. Quello è stato un grande amore della mia vita, ma è finito malissimo, perché tra l'altro era una storia pendolare che è durata finché era pendolare, poi invece quando sono tornata a Bari evidentemente lui aveva altri interessi, altri amori eccetera, gli è seccata molto questa vicinanza e niente, abbiamo rotto in maniera proprio fragorosa. Ma dopo quanti anni? Dopo 6 anni. Ma cioè, quindi scusa, fammi capire, fino a che eravate distanti tutto bene, poi quando sei tornata a Bari? Sì. Senti, invece tra l'altro è anche un collega, io pensavo che capisse anche gli orari, le cose, invece poi alla fine no. I colleghi sono i peggiori. Com'è guardarsi da fuori e immaginare la vita propria della propria famiglia? È curioso, perché è in fondo quello che ho fatto io, perché io sono tornata dopo 20 anni in città e pensavo, in fondo mi sembra di non aver vissuto fuori, non aver fatto nulla, io sono tornata qui come prima, mi sembra un tipo di vita immobile e invece... Poi sono passati 30 anni in realtà, no? Certo. E anche per la persona che guarda sono passati 30 anni. Ed è strano perché in realtà non ci conosciamo. Poi ho avuto una serie di agnizioni io tornando a Bari, cioè persone che avevo visto nelle manifestazioni, ma in realtà non conoscevo. Le ho viste 30 anni dopo con i capelli bianchi e mi ha fatto una certa impressione. Lo immagino. Senti Maria Teresa, io ti devo salutare, però ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto e per la telefonata. E soprattutto per lo spunto che ci hai dato di immaginarsi per una volta da fuori. Grazie davvero Maria Teresa. Tutti i complimenti per la tua trasmissione. Grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Ecco, sempre per i più attenti di voi, e di solito in questo punto, dopo la borsa, ma c'è la borsa anche il 4 di gennaio? Proprio sempre. Solo a Natale e al Capodanno non c'è. Per i più attenti di voi, di solito qui si rientra con una fotografia. Però questo è stato il primo caso dall'inizio del... non dell'anno, perché dall'inizio dell'anno sono 3 giorni. Dall'inizio della stagione di questo programma in cui non siamo riusciti a recuperare una fotografia di Maria Teresa. Cioè, una fotografia della persona che ha scritto il racconto, nella fattispecie di Maria Teresa. Che un po' fa strano per uno che faceva la giornalista, ma non fa niente. Adesso non è che possiamo star qui a sindacare sulle capacità informatiche di ciascuno di noi. Abbiamo chiesto anche un MMS. Niente, non ce l'abbiamo fatta. O magari non voleva, giustamente. Bonino dice, magari non voleva andare... E no, aspetta un attimo. Però va bene tutto, però ci sono delle regole, giusto? Abbiamo detto, e già manda il racconto che era di traverso, e in più non ci manda neanche la foto. Vabbè, comunque, diamo la colpa a Margherita. Facciamo che Margherita non è riuscita a recuperare la foto. A posto? 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, ma anche Matteo Caccia, io sono qui, il profilo Facebook, ho detto tutto. Tanto è il 4 di gennaio, non sarete mica in macchina. Sarete a casa, cosa si fa? Il 4 gennaio si aspetta il 6. Oggi si parla della capacità di immaginare delle cose. Nella fattispecie Maria Teresa si è immaginata la vita della propria famiglia vista da fuori. Igor però ha scritto: io ho un'abitudine che ho iniziato da bambino e che prosegue anche oggi. La sera quando vado a dormire, dopo aver letto qualche riga di un libro, mi rifugio in un pensiero bello, qualcosa che mi faccia sentire bene. Lo chiamo il pensiero buono. Un giorno di vacanza passato al mare, la volta in cui la mia squadra ha vinto la Champions League, ricordo bene. O il primo bacio alla donna che amavo. Oppure 349-238-6666. Ogni volta che qualcuno mi chiede qualcosa, io rispondo come meglio credo. Mi immagino che effetto farebbe se dicessi la verità. L'altro giorno però io volevo vedere un film, anzi volevano farmi vedere un film che è la storia di un tizio che viene... Quando comincio così è finita, ragazzi. Allora, non mi viene né un nome. Qual è il film di cui mi parlavi l'altro giorno? Quello che nasce da un libro. Cioè, c'è una persona che scrive e si immagina un libro. Vero come la finzione. È un film in cui c'è Nicolas Cage. Credo Nicolas Cage. Non c'è Nicolas Cage. C'è Will Ferrell, esatto, Will Ferrell che vive la sua vita normalmente, come tutti, si alza la mattina, va al lavoro, adesso non lo so raccontare bene perché non l'ho visto, me l'hanno raccontato, ma giuro che tra oggi e domani lo riguardo. Will Ferrell vive la sua vita come se fosse una vita normale, però a un certo punto comincia a sentire delle voci, giusto? Comincia a sentire le voci come di una voce narrante esterna. All'inizio si guarda in giro spaesato e fino a che poi si svela il tutto. Lui è il protagonista di un romanzo che un'altra persona, chiaramente un autore, sta scrivendo e lui si trova di fatto ingabbiato in questa vita. Si chiama Vero come la finzione. Mi piacerebbe anche dirvi il titolo inglese perché ho la sensazione che sia molto più bello del titolo italiano, ma tant'è, questo è quello che ci che oggi passa il commento. Comunque, appunto, vorrei dirvi che è un bel film, andatevelo a vedere, però non l'ho ancora visto, ma ha senso con la puntata di oggi. 349-238-6666. Hermes. Vabbè, questo nome è inventato, non ci credo che c'è ancora qualcuno che si chiama Hermes. O forse sì, qualche paese del Friuli. Non so perché del Friuli, però mi immagino che qualcuno... Ecco, perfetto, io pensavo qualcuno del Friuli, invece Bonini dice che è un amico pugliese che si chiama Hermes. Da bambino, mi viene un po' da ridere oggi, forse perché è il 4 di gennaio e non c'è veramente niente da ridere, proprio soprattutto il 4 di gennaio. Da bambino giocavo a pallone, ma non ero bravo. E allora la sera, nel mio letto, mi immaginavo di fare lunghe corse sulla fascia, arrivare in fondo e crossarla in mezzo, dove c'era sempre qualcuno che la buttava in porta. Mi sono sempre stupito di come non immaginasse mai di fare gol io, ma di crossare la palla per qualcuno. Probabilmente avevo paura di immaginare cose troppo impegnative per me. Addirittura la paura di immaginare di fare gol. 349-238-6666. C'è però quello che faccio di solito a questo punto è leggervi il pezzo di un libro e infatti lo farò anche adesso, perché è un libro che parla esattamente di questa cosa. Parla di una persona che osserva, in questo caso per un'investigazione, perché il protagonista è un investigatore privato, che osserva la vita di un'altra persona attraverso la finestra. È un racconto di Paul Auster che appartiene a Trilogia di New York. Il racconto nella fattispecie si chiama Fantasmi. Questo è un libro del 1985 pubblicato in Italia da Einaudi, se avete voglia di cercarlo. Allora, io in realtà spero di avere il tempo di farlo, perché volevo leggervi, diciamo, un passaggio in cui proprio questo... questo investigatore guarda la vita della persona che sta seguendo. Però io non posso esimermi da leggervi anche l'intro di questo racconto, perché ha una forza devastante. Quindi facciamo così, prova a leggere tutte e due, se abbiamo il tempo, ok? Allora, Paolino, fai così: se mi togli la base, io parto proprio con l'inizio. Questo è l'incipit di Fantasmi, da trilogia di New York di Paul Auster. In principio c'è blu, più tardi c'è white e dopo ancora black. E prima del principio c'è brown. È Brown che l'ha svezzato. Brown che gli ha insegnato il mestiere, e quando Brown è invecchiato, blu ne ha preso il posto. È così che comincia. Il luogo è New York, il tempo è il presente, e né l'uno né l'altro cambieranno mai. Ogni giorno blu va in ufficio, siede alla scrivania aspettando che accada qualcosa. Non capita niente per un pezzo, finché un uomo di nome White varca la soglia, ed è così che comincia. Il caso sembra piuttosto semplice. White vuole che blu segua un uomo di nome Black e lo tenga d'occhio finché sarà necessario. Ai tempi in cui lavorava per Brown, blu ha condotto molti pedinamenti e questo non pare diverso dagli altri, forse anche più facile della media. Blu ha bisogno di lavorare, perciò ascolta White senza fargli troppe domande. Deduce che si tratta di una crisi coniugale e White è un marito geloso. White però non fornisce dettagli. Dice di volere un rapporto settimanale da lui, spedito alla cassetta postale XY, dattiloscritto in duplice copia di formato così e così, sempre settimanalmente. Sempre settimanalmente a Blue sarà recapitato per posto un assegno. Poi White spiega a Blue dove abita Black, il suo aspetto fisico, eccetera. Quando Blue gli domanda quanto durerà il caso presumibilmente, White risponde che non lo sa. Lei continua a spedirmi rapporti, dice, fino a nuovo ordine. Dunque è così che comincia. Il giovane Blue con un uomo di nome White, che ovviamente non è quello che sembra. Scostando le tende dalla finestra guarda fuori e scorge Black, seduto a un tavolo nella stanza di rimpetto. Da quel che riesce a vedere gli sembra che Black stia scrivendo. Uno sguardo col binocolo conferma l'ipotesi. Le lenti però non sono abbastanza potenti da leggere quanto sta scrivendo. E anche se lo fossero, Blue dubita che saprebbe decifrare le parole capovolte. Per certo dunque può dire solo che Black scrive su un taccuino con una stilografica rossa. Blue prende il proprio libro e annota 3 febbraio ore 15, Black al tavolo scrive. Di tanto in tanto Black si interrompe per guardare fuori dalla finestra. A un certo punto Blue ha l'impressione che guardi proprio verso di lui e si ritrae. Ma osservando con attenzione vede uno sguardo assente, più mentale che ottico. Uno sguardo che rende le cose invisibili, che non dà loro accesso. A intervalli poi Black si alza dalla sedia e scompare in un punto nascosto della stanza. Un angolo, immagina Blue, o magari il bagno. Ma non si assenta mai troppo a lungo. In breve torna e va alla scrivania. La scena va avanti per ore e ore e Blue non ricava nulla dai propri sforzi. Alle 6 scrive la seconda annotazione. La scena va avanti per ore. Stay super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us, we'll laugh away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Questo pezzo è tratto da Fantasmi, che è un racconto di trilogia di New York di Paul Auster. 349-238-6666. Giuliana mi scrive: mi immagino di essere magra ogni volta che mi guardo allo specchio. A volte funziona. A volte invece forse no, Giuliana. Ma non si fa ironia sulle persone. No, non sto facendo ironia. Pierpaolo, 16 anni. Quelli che mi scrivono che hanno 16 anni non ci credo mai. 16 anni da Bari, anche lui. Quando studio mi immagino di essere davanti al professore e dover ripetere la lezione. Di solito funziona. Quando devo chiudere immagino semplicemente invece che siamo già in ritardo. E quindi ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Maria Teresa e si immaginava la propria vita vista da fuori. Quella di domani invece è la storia di Matteo e parla dei segreti dei genitori. E il peggio poi sono le domeniche. Una di queste, subito dopo pranzo, mia madre lancia l'idea di un giretto sulle colline bolognesi. Ha sentito una collega parlare di un mercatino, anzi una fiera. Insomma, due bancarelle buttate in una piazzetta gelida, praticamente vuota. È un weekend senza Formula 1, quindi mio padre dice di sì, che si potrebbe anche fare. Cercano di coinvolgermi, ma riesco a sottrarmi. Questa è una conquista recente, fino ad un annetto fa la mia presenza a queste gitarelle non sarebbe neppure stata in discussione. Ecco, visto quello che ho scoperto quel giorno, sarebbe stato meglio ci fossi nato anch'io.